Savonarola, il frate che fece pochi panettoni a Firenze, e comunque all'epoca i dolci erano roba da nobili e non da frati. Stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che il 1 settembre 1859 fu testimone di quello che è passato alla storia come l'evento di Carrington, ossia una potentissima tempesta solare che dette grande spettacolo nei cieli con l'aurora boreale visibile anche a Roma. Pochi, se non quasi nulli, i danni provocati, escludendo le linee telegrafiche, che però erano solo agli inizi, era ancora un mondo analogico. E lette oggi da me che in un mondo quasi esclusivamente digitale, se la stessa tempesta solare colpisse la Terra, e prima o poi succederà, farebbe forse spettacolo nei cieli, ma nessuno starebbe a guardarli perché provocherebbe il tilt di ogni apparecchiatura elettronica, causando danni e distruzione immani, se non la scomparsa della civiltà come noi oggi la conosciamo. D'altra parte, dice il proverbio, tutti non possono avere la casa in piazza, ma ogni casa vede il sole, e comunque a chi è disgraziato gli tempesta nel forno. Serio, capitolo 12, volume 2, l'abito non fa più il monaco. Quando i messi entrarono nel carcere del Savonarola a comunicargli la sentenza, lo trovarono inginocchiato che pregava. Dopo aver udito il tristo annunzio, non dette alcun segno di dolore o di gioia, ma continuò più fervida la sua orazione. Poco di poi gli venne offerta la cena, che ricusò dicendo aver bisogno di fortificare l'animo e non il corpo, di tenere la mente serena e bene apparecchiata alla morte. Ed ecco entrare nella prigione un uomo tutto vestito di nero, col viso nascosto sotto un nero cappuccio. Era Jacopo Niccolini, battuto della Compagnia del Tempio. Questo nome si dava ai membri di una associazione che volontariamente assistevano le ultime ore dei condannati. Non appena il Niccolini ebbe interrogato il Savonarola se poteva soddisfare a qualche suo desiderio, questi lo pregò di impetrargli dai signori un breve colloquio coi suoi due compagni di prigione, ai quali prima di morire voleva dir poche parole, e l'altro andò subito, dimostrandosi assai volenteroso da adempiere a questo ufficio. Allora entrava un monaco di San Benedetto per confessare il prigioniero, che devotamente inginocchiatosi adempieva con fervore a tutti gli uffici religiosi. Lo stesso facevano gli altri due frati. I signori discutevano intanto sulla domanda di cui era portatore il Niccolini, e si temevano sempre dal Savonarola qualche cosa di straordinario e di inaspettato, ma il benevolo messaggero faceva loro considerare che non vi poteva essere nulla a temere da chi già si trovava, per così dire, con un piede nella fossa, e che gli ultimi desideri dei condannati sogliono sempre essere soddisfatti. Così venne concessa un'ora di colloquio nella sala del Consiglio Maggiore. Con quale animo si incontrassero i tre frati sarebbe assai difficile descriverlo. Si vedevano per la prima volta dopo più di 40 giorni di prigionia e di tortura, dopo che ad ognuno di loro s'era voluto far credere che gli altri avessero ritrattato ogni cosa, dopo che fra Domenico e fra Salvestro avevano coi propri occhi veduto il falso processo del Savonarola. Ma quelli non erano momenti da permettere alcuna dichiarazione, si trattava solo da apparecchiarsi con fraterno coraggio alla morte. La sola presenza del Savonarola bastò subito perché in mezzo ai suoi compagni egli riprendesse tutto il suo ascendente. Al primo apparire di quel volto calmo e severo, ogni dubbio scomparve dall'anima dei suoi discepoli e vi rinacque invece l'antica fede. Non v'era da perdere un solo minuto, onde si rivolse tosto a Fra Domenico dicendo: «Io so che voi chiedete d'essere bruciato vivo, ma ciò non è bene, a voi non è lecito di scegliere la morte. Sappiamo forse con quale fermezza sopporteremo quella a cui siamo condannati? Ciò non dipende da noi, ma dalla grazia che il Signore ci vorrà concedere». Volgendosi poi con maggiore severità, Fra Salvestro gli disse: «Di voi so che volete, innanzi al popolo, difendere la vostra innocenza. Io vi impongo di lasciare un tal pensiero e seguire piuttosto l'esempio del nostro Signore Gesù Cristo, che neppure sulla croce volle parlare della innocenza sua». I due frati, senza rispondere una sola parola, si inginocchiarono dinanzi al loro superiore e, ricevuta devotamente la benedizione, se ne tornarono ciascuno alla sua prigione. Il Savonarola aveva giustamente pensato che ogni esterna manifestazione d'atti o parole avrebbe reso meno solenne e meno cristiana la morte loro. In quell'ora suprema tutti i pensieri e tutto l'animo dovevano essere rivolti a Dio. Tale era stato il fine di quel colloquio. Ora che i suoi discepoli si erano mostrati dispostissimi all'obbedienza, a lui non restava altro che apparecchiarsi a bene morire. La notte era già molto avanzata quando egli rientrò nella prigione. Ivi il sonno e la stanchezza lo vinsero per modo che, avendo quasi in segno d'affetto e riconoscenza posato il capo sulle ginocchia del benevolo Niccolini, cadde subito in un sonno breve e leggero nel quale pareva sorridere e sognare. Tanta era la serenità del volto e dell'animo suo. Destatosi, egli fu come sorpreso di se stesso e, per dare un segno d'affezione e riconoscenza al Niccolini, volle riconfermare le future calamità di Firenze e si dice che aggiungesse: «Tieni bene a mente che ciò avrà luogo quando vi sarà un papa chiamato Clemente». Questa profezia fu scritta e serbata fino al 1527, quando nell'assedio di Firenze sembrò verificarsi a capello. Allora i piagnoni la cavarono fuori e l'andavano mostrando al popolo maravigliato. Tale almeno è il racconto che ci lasciarono gli antichi biografi. I tre frati passarono tutta la notte in continua orazione e la mattina si rividero per comunicarsi. Il Savonarola ottenne di farlo con le sue proprie mani e così, presa l'ostia, vi fece sopra un'orazione a sempre meglio dichiarare la sua dottrina. Fatta questa piena ed esplicita dichiarazione di fede, prese la sua comunione. Lo stesso fecero i suoi due compagni e subito dopo venne loro annunziato che potevano scendere nella piazza. Sulle scale della ringhiera si vedevano eretti i tribunali in numero di tre. Il più vicino alla porta del palazzo era per il vescovo di Vasona, il secondo a sinistra per i commissari apostolici, il terzo vicino al Marzocco per il gonfaloniere e gli otto. Di lì, stendendosi verso il tetto dei Pisani, correva un palco alto a statura d'uomo che occupava nella sua lunghezza un quarto della piazza. Alla estremità del medesimo si innalzava un grosso palo traversato in cima da un altro che formava così una croce, sebbene per evitare quella forma fosse stato più volte scorciato. Dalle braccia di questa croce pendevano tre lacci e tre catene, per prima impiccare i frati e poi incatenarne i cadaveri onde rimanessero sospesi mentre venivano divorati dalle fiamme. Ai piedi del palo era un gran monte di materie accensibili, d'intorno a cui i fanti della signoria duravano una gran fatica per tenere lontana la moltitudine che si muoveva e cresceva ad ondate. La folla non sembrava più numerosa che nel giorno dell'esperimento del fuoco, ma d'aspetto assai diverso. V'era un silenzio tristo e solenne, una trepidazione profonda occupava l'animo anche di coloro che più avevano desiderato questo giorno. Ed in quella universale agitazione la moltitudine era esaltata da passioni diversissime. Vi si vedevano bici, piagnoni e arrabbiati. Quelli che più erano stati assidui alle prediche del frate si trovavano accanto a coloro che con le pietre e coi pugnali gli avevano attentato la vita. Vi si trovavano ancora molti degli scrittori che nelle cronache o diari ci hanno lasciato eterna ricordanza di quel giorno tanto memorabile. Che pensieri passassero per l'animo loro sarebbe certo assai più facile al lettore immaginarli che a noi descriverli. Intorno al monte delle materie infiammabili era intanto penetrato un pugno di gente che, alle bestemmie, alle grida oscene, al feroce diletto con cui già pregustavano il vicino spettacolo d'orrore, sembravano belve piuttosto che uomini. Erano la più parte usciti allora dalle prigioni dove i passati magistrati li avevano chiusi a cagione dei loro delitti e donde la presente signoria li faceva uscire a cagione solamente dell'odio che dicevano di portare al Savonarola e ai suoi seguaci. Già i tre frati scendevano le scale di palazzo quando ecco un domenicano di Santa Maria Novella a venire loro incontro con ordine di spogliarli dell'abito lasciandoli nella sola tonacella di lana coi piedi ignudi e le mani legate. Quest'atto così inaspettato commosse profondamente il Savonarola, ma pure fattosi animo prese in mano il suo abito e prima di renderlo disse: «Abito santo, quanto ti ho desiderato! Tu mi fosti concesso per grazia di Dio e io t'ho conservato finora senza macchia. Ora io non ti lascio, ma tu mi sei tolto!»